No, va bene, grazie per l'invito. Buonasera a tutti e a tutte e a tutte. Sono Mauro Muccio della Libreria Antigone di Milano. Ho accolto con entusiasmo l'invito a dialogare con intanto con voi tutte, ma soprattutto con Martina Micciche, autrice di Femminismo di Periferia. Poi dopo ti lascio il microfono che non funziona per presentarti, perché anche in libreria facciamo presentare le persone a se stesse, cioè diciamo autore, autrice, ecco, solo per collocarli nella geografia culturale, ecco, però poi la presentazione, il cosa vuoi raccontare di te lo decidi tu. Prima però di passare il microfono, credo che questo sia uno dei libri più importanti usciti negli ultimi anni nell'editoria italiana di stampo femminista, transfemminista e queer, perché uno dei grossi problemi che i movimenti queer e transfemministi, secondo me, negli anni hanno evidenziato, non tanto a livello pratico, piuttosto a livello teorico, è stato quello di utilizzare le letture intersezionali. Spesso queste, secondo me, queste letture intersezionali sono state più sbandierate che utilizzate realisticamente, nel senso con una caduta nel reale, ecco. E credo che invece questo sia uno di quei libri che è riuscito a fare proprio questo, cioè a partire da il titolo lo suggerisce, Femminismo di periferia, quindi a partire da una questione, un focus, quello delle periferie, e analizzarlo attraverso un'importante politica sociale, culturale, lettura intersezionale di un certo livello. Prima di passare, concludo dicendo di un certo livello, nel senso, dato che spesso quando si parla di libri e autorialità il livello lo si misura, perché così ci hanno insegnato, in base al livello accademico, alle lauree, agli studi, insomma ai titoli che in qualche modo abbiamo raggiunto o non abbiamo raggiunto. Ecco, questo è un livello diverso, perché è il livello che coglie perfettamente la questione politica, la questione conflittuale. Alzi anche il volume, pensa a te. No, però insomma il livello politico, secondo me, è uno strumento politico, è un ottimo strumento politico, transfemminista queer, anche se un po' riduttivo, perché poi c'è anche altro oltre al transfemminismo queer, e quindi questo è uno dei tanti motivi per cui ho accettato di voler venire qua a dialogare con te. Beh, in realtà tipo hai fatto l'espressione fisica del disagio che provo io se ricevo un complimento. Interiormente ero così, quindi va bene. Dai. Allora, quindi mi devo presentare, una cosa che non so fare tanto bene, quindi abbiate pietà di me. Intanto grazie. E grazie a voi per il tempo che avete deciso di investire in questa presentazione, che spero non vi asciughi l'anima. E, allora, io mi chiamo Martina Micciche e sono una fotoreporter. Sono una fotoreporter, fra virgolette, di lavoro faccio la fotoreporter, in teoria sarei una persona, ma sappiamo che ci misuriamo in base al lavoro che facciamo e soprattutto a quanto questo lavoro rende. Il mio lavoro non rende un cazzo, quindi tecnicamente, socialmente io valgo meno di quello, ma va bene così, ce lo accogliamo. E sono abbastanza un improbabile, quindi sono stupita di sentire tutte queste belle cose. Ho scritto questo libro sull'onda di una grandissima incazzatura personale che ho vissuto quando mi sono affacciata al transfemminismo. Quello che avevo incontrato allora non era transfemminismo, non si usava ancora questo termine, e non perché fossimo chissà quanti anni fa, ma perché era un femminismo molto più centralista, statalista, liberale, neoliberista, cioè insomma una roba che, già che si chiama femminismo, è un po' così, un allargamento che non si dovrebbero concedere, però insomma era quello che avevo trovato. E mi sono trovata molto poco rappresentata, molto poco ascoltata, ma soprattutto non vedevo le stesse cose che io avevo esperito in tanti spazi che avevo attraversato nella mia vita. Non trovavo mutualismo, non trovavo sorellanza, trovavo un sacco di termini molto, molto belli, molto fighi, molto anglosassoni. Quello che dicevi tu prima, no? Anche un po' la distanza tra l'accademia e la realtà, lì era sostanzialmente una frattura insanabile che spesso espelleva anche l'accademia, quindi era una sorta di cluster intellettuale che se la suonava e se la raccontava. E quindi niente, Nacer ha detto vabbè, però forse anche io sto ripetendo uno sguardo, sto anch'io indirizzando il mio sguardo in maniera un po' basic, un po' problematica, sto sempre a aspettare che il centro mi dia qualcosa, forse è meglio che me ne ritorno negli spazi in cui so di essere stata e gli spazi da cui vengo, e lì ho scoperto il transfemminismo intersezionale nella sua accezione più reale, che non vuole essere né completa né perfetta né sti cazzi, perché non serve il bollino della buona femminista, perché quello quando arriva è un problema, però è un femminismo che si mette in discussione realmente, e allora lì ho detto ma vediamo se riesco a scrivere una roba che possa avere un vago senso. Sì, no, arrivo anch'io, sono un po' meno rapido, perché Mauro mi ha già tramortito quando ha parlato di scala editoriale, no? Ho detto, ho già perso il termine perché non sono così intelligente. No, cazzata a parte. Una cosa io che ho trovato interessante il libro, effettivamente me l'ha spiegato prima Mauro con delle altre parole perché non c'ero arrivato, perché c'è molta pratica nel libro, cioè c'è molto esempi raccontati, cose fatte, successe, che spiegano un po' cosa significa fare per femminismo di periferia. Inizio dalle cose forse più semplici, proprio avanti il resto. Cos'è per te periferia? Prima, mentre ci siamo conosciuti, la battuta era tu Milano Nord, qui Milano Sud, per cui adesso volano gli schiaffi perché non ci si può capire. Però, che è una battuta, ma non tanto. Cioè, ogni tanto noi tra di noi che siamo qua ci facciamo le battute, diciamo, sì, bisogna superare la dogana in Viale Cermenate, uscire dal quartiere, sembra che stai andando nell'altro mondo, invece no, non è così. Però effettivamente se hai voglia di raccontarci, perché nel libro lo fai molto bene, cos'è per te periferia? Perché ci sono anche cose che io non mi aspettavo. Forse adesso non vorrei avere preso il lucio per lanterna e dire cose che non c'entrano, però anche una donna incinta viene considerata periferia, perché il centro è la vita che ha nella pancia, quindi il resto di quello che è donna sparisce perché ormai è solo mamma. Quindi il concetto di periferia, addirittura ne parli quasi in termini, non so come dire, il potere è creare periferia o centro, piuttosto che rapporti di produzione. E questa cosa qua da vetero marxista schifoso un po' metto. Ah no, cresce il cervello, però leggendo il resto del libro si capisce. Basta, questa era la domanda, poi vediamo il resto. Ok, allora sarò breve. Io l'ho intesa da un punto di vista geografico, materiale, ma anche identitario, perché la periferia non è una cosa che esiste in sé della serie. Dopo Adamo ed Eva sono arrivati i centri e le periferie, non c'erano né gli uni né gli altri, nel senso che a un certo punto qualcuno ha definito qualcosa, no? Questo è un po' come funziona il nostro sistema sociale. Noi lavoriamo per convenzioni sociali, ci diamo degli assoluti, andiamo avanti. Molto spesso sono assoluti molto sbagliati, molto problematici, dati dal potere, che per l'appunto è quello che occupa il centro e che lo definisce sulla base di quello che gli interessa. Il centro essenzialmente è il punto dove sta il potere in tutte le sue emanazioni, ma soprattutto lo spazio a cui si riconosce un potere che viene emanato a discapito di chi? Delle periferie. Le periferie quindi sono tutti quegli spazi che possono essere fisici, pratici, ma anche personali, comunitari, spaziali, non necessariamente afferenti alla città, che vengono periferizzati, quindi che subiscono questo processo di allontanamento, per cui vengono considerati margini essenzialmente. E questo può avvenire in seno a una città, io l'ho vissuto venendo dalla Comasina, ma penso che lo vivano tante persone anche in spazi diversi, e avviene in maniere spesso impensabili, perché ci sono spazi che sono molto più centrali della Comasina, che sono considerati periferia in base a chi li abita. Quindi a quanto pare la periferia non è una dimensione geografica, ma spesso viene definita sull'interesse espulsivo che parte dal centro. Penso a tutti i quartieri che sono abitati con una certa continuità coetnica, penso a tutte le persone razzializzate che magari costruiscono, che magari sono di prima, seconda, terza generazione, che costruiscono anche delle reti di supporto per chi arriva e si trova in una città razzista come Milano per trovare affitti, per trovare lavoro, per trovare anche semplicemente comunità, spazi dove parlare in lingua senza avere la gente che si gira sulla metro e dice: Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Che effettivamente è una cosa che si vede ovunque. Io quando prendo la metro da casa dei miei, perché ora io mi sono spostata, non abito più in Comasina, e mi muovo verso il centro, io vedo come cambia lo sguardo. Se da me, cioè il razzismo è fortissimo, è sistemico, mano a mano che ci si avvicina in centro e si sentono persone parlare in arabo, la gente proprio tipo panico, che succede? E questo è solamente un esempio scontato, quotidiano, a cui però siamo anche disabituati di quanto è veloce la periferizzazione, che di fatto è quel processo che mette qualcuno al margine. Si è deciso che quella soggettività non vale un cazzo, che chi le somiglia vale meno di niente, e quindi si crea una periferia. La periferia però ha un uso, non è che si crea solamente per divertimento, perché uno non sa cosa fare della sua vita. Alcuni lo fanno anche per questo, perché sono talmente ricchi che non sanno cosa fare delle loro vite, beati loro. Però il punto è che effettivamente la periferia costituisce una risorsa. virtualmente infinita, perché ci sono persone da sfruttare, soggettività da sfruttare e più di tutto potere da estrarre, potere che vediamo nella sua restituzione materiale con il denaro, la forza lavoro, ma anche potere politico, potere concettuale, potere ideologico, se vogliamo anche potere culturale, perché di fatto è difficile pensare che una persona della periferia abbia titolo di scrivere un libro, perché dovrebbe, i libri li scrivono quelli che vanno all'università, quelli che si fanno il dottorato, che si possono permettere di fare l'università frequentando e costruendo una relazione con il professore, quindi poi magari lavorare per fare gli assistenti o quant'altro, li scrivono quelli che possono andare in televisione, quelli che hanno i genitori che gli possono permettere di non dover lavorare da quando sono minori e quindi di scoprire che cosa la loro creatività può esprimere. Infatti io sono cresciuta da bambina appassionata di libri e per quanto una parte di me avesse sempre sognato di scriverli, c'era una parte di me che diceva sì, ma a te chi cazzo ti si caga? Perché dovresti pensare che qualcuno ti vuole? Cos'è da dire di così interessante? Sicuramente niente, ma il discorso che facevo alla base non partiva tanto dal fatto che avessi o meno qualcosa da dire, quanto piuttosto dalla mia identità. Io, una persona queer di periferia, che deve stare un po' schiscia in base a come si muove, perché sei socializzata donna, la gente che ti vede, che vieni da lì, ti dice oh mio Dio, vieni dalla Comasina, chissà che cazzo sei, una persona. Posso interromperti tanto perché c'era un aneddoto bellissimo che racconti nel libro che fa venire il fastidio solo a leggerlo. Vabbè, nel libro racconta questa cosa, mi permette di raccontarlo per te, lo vuoi raccontarlo tu? No, semplicemente sei andata a bersi una birra con gli amici, a un certo punto arriva una ragazza che non conosceva la compagnia, si presenta a tutti e a un certo punto, già mi manca la memoria, da dove vieni? Dalla Comasina, e quindi non gli stringe la mano. Sì. Che io dico, cioè, ma ce la fai? Allora, c'è anche un sottotesto. Cioè, ecco, questo che ti volevo chiedere era questo. Che fine ha fatto questa poi? Cioè, vorrei sapere cosa ha avuto nella vita, cosa le è capitato, perché... Allora, era una persona molto ricca che veniva, se non sbaglio, dalla Brianza, ma se non ricordo male veniva da un paese molto ricco della Brianza, studiava alla Naba, era lì una delle sue prime notti a Milano perché, oh mio Dio, la metropoli e bla bla bla. E ha conosciuto l'anticristo. Esatto, cioè la sua cosa fancy per presentarsi alla gente era chiedere ai presenti da dove venissero, no? Ah, ma tu da dove vieni? Chi sei? Bla bla bla. E quando tutti dicevano, ah sì, io abito, boh, viale sto cazzo, arrivo io, dico un sacco di parolacce, mi spiace, più forte di me. In realtà me la rivendico un po' sta cosa, però ok. E io ho detto, sì, piacere, Martina, vengo dalla Comasina. Lei mi ha proprio guardato e mi ha detto, scusa, ma io ho pregiudizi, aveva la mano così e l'ha tirata indietro. E io, vabbè, non è che sono molto fiera di quello che ho detto, però l'ho guardata e ho detto, beh, fai bene, stai attenta, cioè, che cazzo ti devo dire? A un certo punto mi sono trovata disarmata e tra l'altro una volta mi è capitata una presentazione in cui mi si chiedesse di raccontare questo aneddoto, che una persona al pubblico mi dicesse che io avevo sbagliato perché lì avrei dovuto prendermi del tempo per educare questa persona e io ho avuto quell'attimo e ho detto, dei soldi, fagli un bonifico magari. Perché, cioè, voglio dire, io sto qua apposta, no? Non so, uno mi tratta male, quindi io devo anche ogni volta essere sufficientemente centrata, avere le risorse cognitive e emotive per educarti. Quando poi avevo, 18 anni, ero incazzata con la vita ed è già tanto che non l'ho mollata una pizza, lo dico sinceramente. Ogni ma tanto perché ci perché avercela con la Comasina? Cioè, perdonatemi, ma cioè, cosa è successo? Siamo tutti criminali. Siamo tutti criminali. Siamo tutti criminali, perché abbiamo sto retaggio di Vallanzasca che qua ce l'abbiamo addosso, mamma mia, oh. Basta, scusa, la domanda intelligente l'ho fatta. Prego, Mauro, vai. No, mi manca la domanda. Guarda che io c'ho un cartello con scritto periferia. Non l'abbiamo messo perché arrivava Martina comunque. Cioè, c'era 10 anni, 6 anni, non mi ricordo più. Cazzo, hai ragione. È vero. Niente. Sì. Adesso rifacciamo tutto. Uscite per cortesia che riposizioniamo il tavolo e rifacciamo uguale. Vai, dici qualcosa. A caso, quello che vuoi. Sì, no vabbè, mi raggancio allora, perché nel libro esce molto bene, l'hai detto anche adesso in realtà, che la periferia non si definisce, la periferia è definita da qualcun altro. E questo un po' è il tema del libro, perché quando io prima dicevo una lettura intersezionale, insomma, l'intersezionalità è uno strumento che si adotta che si adotta per diciamo leggere le complessità e le contraddizioni anche della realtà, o per dare un senso a tutto questo, o forse poi per trovare altre complessità e soprattutto altre contraddizioni. E quando io prima dicevo intersezionale è perché noi abbiamo una lettura che va da dati di urbanistica alle questioni di genere, alle questioni delle sessualità, ma anche le disabilità, l'antispecismo, cioè sono tanti i punti di vista e o le voci che parlano qua dentro, perché poi ci sono anche alcuni riferimenti, anche brevi passaggi in cui altri soggetti raccontano, insomma, e questo è un valore aggiunto, perché un po' per smontare anche il discorso di chi può scrivere i libri, chi può parlare, eccetera, eccetera, io credo che sia un ottimo strumento quello in cui quello di rendersi conto che in alcuni casi bisogna fare un passo indietro. A me lo ha insegnato il femminismo, che il passo indietro è un atto politico, perché non è un concedere uno spazio, ma è capire che cosa noi, il tuo corpo, la tua storia, la tua identità occupa in quello spazio, e quindi rendersi conto che in alcune situazioni bisogna togliersi, bisogna che siano gli altri, le altre a parlare, e qua c'è. Aspetta che mi ero appuntato una cosa. No, e poi mi riaggancio a questa cosa che dicevi del racconto di questa che non ti stringe la mano, che secondo me è molto interessante, perché noi ce lo dimentichiamo spesso, e qua un po' di vetero marxismo aiuta. Se noi conosciamo a livello astratto, o meno così, come racconti, parole, tradizione, la coscienza di classe, e la conosciamo perché ci riferiamo a una coscienza di classe nostra, cioè gli oppressi, le oppresse che prendono coscienza, bla, qualcuno ricordò negli anni, nel Novecento, e analizzò invece che esiste una coscienza di classe anche di chi opprime. Nel senso che c'è un odio chi in questo caso di chi discrimina, cioè di chi non è oppresso, di chi non subisce quella specifica oppressione, diremmo oggi, cioè che quando si parla del potere, della ricchezza, dei dispositivi di controllo, eccetera, eccetera, l'errore talvolta, secondo me, è renderli troppo astratti. E noi invece ci dobbiamo ricordare che, no, il potere, i poteri hanno nomi, cognomi, indirizzi, strutture fisiche. Esatto. Si possono sempre andare a visitare. No, no, nel senso che mano armata o meno, comunque. Cioè, ci sono dei dispositivi da Foucault, cioè Foucault ce lo ricorda, ma anche altri, cioè ci sono dei dispositivi che non hanno una corrispondenza fisica, materiale, no? Però ci sono dei soggetti che difendono certi dispositivi, o dei soggetti che da questi dispositivi ne traggono privilegio economico, privilegi. Questa qua che non stringe la mano ha molta coscienza del fatto che io appartengo a un certo tipo di società, di classe, di livello, per cui il suo pregiudizio dichiarato, tra le altre, è una delle cose migliori, perché proprio fa rendere conto che no, il mio non è, cioè è un giudizio cioè è un giudizio che io ho già scelto prima, e con le persone che vengono, non so se dal suo punto di vista dalle periferie o se dalla Comasina in particolare, questo no, è giusto così, e io con questa persona non parlo. Questa è la coscienza di chi discrimina, è una cosa molto, molto utile, è più politicamente interessante, è utile e divertente questa dell'ho tanti amici gay, ma che invece no, io non voglio prendere una vera posizione, non ti dico davvero che cosa penso, mi definisco con quel mi definisco un po' amico, però metto un ma perché non vorrei che poi sia un po' fraintesa la situazione. E questo è molto interessante. Aggiungo un'altra cosa, mi è venuto in mente. Il libro ha anche parecchi dati, proprio dati numerici. E noi sappiamo che, insomma, quando ci sono i dati numerici bisogna un attimo fermarsi e capire, no? Cioè, chi ha fatto queste ricerche. Cioè, sappiamo che in questo caso la statistica non è neutra, Dipende chi la fa, come la leggi, quando è stata fatta, che messa in discussione, per esempio, soprattutto su quelle qualitative, no? Cioè come poni la domanda, che domanda, in che lingua, insomma, a chi la poni, cioè sono tanti elementi che ci fanno dire che quella percentuale che ne esce di per sé vuol dire tutto e al tempo stesso non vuol dire proprio niente. Qua ci sono su diversi punti alcune percentuali che vengono spiegate, cioè che vengono utilizzate per, scusate, che vengono dichiarate, analizzate e spiegate, perché anche la lettura che si fa di alcuni dati è tendenzialmente non neutra. Dipende uno cosa intende quando legge chi sono i maschi, le femmine, la percentuale di immigrati, che cosa vuol dire, cioè, qual è stata, no, la scelta di usare quel termine, chi si è coinvolto in quel termine dai 0 ai 100 anni, cioè ci sono tante variabili e qua vengono spiegati, per quello dicevo, no, anche in questo senso è molto intersezionale, cioè rendersi conto che ci sono delle dinamiche complesse e la lettura che ci serve per leggere queste dinamiche, se vogliamo intaccare e cambiarle, è una lettura complessa, non c'è nulla da fare. No, basta, se no vado avanti troppo. No, Guglielmo, volevo aspettare la domanda, ma non vuoi che facessi una domanda? È quello che vuoi, ma ci mancherebbe altro. No, se vuoi faccio la domanda io secca secca, così poi nel frattempo pensi a una domanda. Va bene, no, ma io le domande ce le ho. Quello che ti pare, davvero, io sono in balia tua, vostra, ci mancherebbe, no, altro. Va bene. Nel frattempo allora io chiedo una cosa a Martina, perché è un concetto che ho scoperto leggendo il libro, che ho trovato molto reale, non ci avevo mai pensato. Rimaniamo tutti e tutte scioccate quando leggiamo che magari in Afghanistan i talebani vietano alle donne di frequentare l'università o di uscire per strada, eccetera. Se invece si tolgono le ultime corse della 90, nessuno dice niente. E non si pensa che questa cosa di fatto è una mancanza da parte dell'amministratore pubblico che non permette, non so, più corsi di mezzi pubblici, ma in realtà alla fine vieta alle donne comunque di andare in giro, perché se non ho la 90 non posso tornare a casa con un mezzo, devo andare a piedi per me è un pericolo, perché sono un corpo riconosciuto come utilizzabile ancora prima di essere debole o non debole. E quindi se avevi voglia di raccontare quello che nel libro racconti molto bene, che è questa cosa di, non so, una specie di mancanza aggressiva. Cioè non ho bisogno di vietare a un certo tipo di soggetto espulso dalla città di fare qualcosa, basta che manco, nel mio essere amministratore pubblico, amministratrice pubblica, basta che manco di fare qualcosa e l'effetto c'è lo stesso. Ne fai una serie di esempi, non so se li ricordi tutti, però se no ce li andiamo a cercare. Vabbè, però se vuoi parlare di questa cosa, perché effettivamente mi sono reso conto che con un sacco di cose basta semplicemente non fare il lavoro come dovrebbe essere fatto, che già di per sé si creano veramente dei vuoti che poi escludono le persone. Allora, uno dei grossi problemi è che quando guardiamo le città, ma in generale i nostri sistemi sociali, che noi guardiamo quello che c'è. Ok, c'è l'ospedale, è lì, c'è questo modo per arrivare all'ospedale, c'è questo spazio, c'è questa piazza. Ad esempio nel mio quartiere hanno fatto un murales con la vernice che assorbe il particolato. C'è. Non si accorgono che non c'è più un parco e c'è arrivato un parcheggio. Ora vedono il parcheggio, non vedono più cosa non c'è. Oppure... c'è una scuola, bellissima la scuola. Come ci si arriva in questa scuola? In Bovisasca c'è una scuola che è raggiungibile tendenzialmente solamente con due autobus, uno non fa il servizio fino a Comasina, per il resto si può arrivare lì solamente con l'automobile. Quindi prevede che le persone che portano questi bambini in questa scuola automaticamente abbiano un'auto che possano utilizzarla negli orari della scuola. Oppure, un'altra cosa che a me ha sempre turbato particolarmente, le carceri, come sono servite in termini di trasporti pubblici? Sono dei mezzi che vanno alle giuste ore, con i giusti tempi, che permettono di collegare tutti i quartieri di Milano, quindi tutte le persone che potenzialmente possono avere delle persone recluse in carcere, che le collegano e permettono loro di arrivare fino al carcere? Oppure devono fare 1, 2, 3, 4, 5 cambi e se sono fortunate, se no magari qualcuno deve prendere il taxi, perché poi comunque comincia l'orario di scuola, comincia l'orario lavorativo. Le nostre città in realtà sono dei campi crivellati, perché essenzialmente ci sono più mancanze che presenze. Queste mancanze ovviamente rispecchiano l'interesse di produzione, perché i percorsi sono fatti per portare le persone negli spazi del consumo, della produzione, tendenzialmente lo sfruttamento. Banalmente, per arrivare da Comasina qua io dovrei fare un giro di mezzi con dei tratti a piedi abbastanza impegnativi, probabilmente, se volessi farlo. Oppure posso prendere l'auto e farmi tutta Milano, una bella ora nel traffico, una cosa meravigliosa che abbiamo esperito prima e stavo arrivando da Centrale, neanche da Comasina, e posso arrivare qua. Quindi io non posso essere collegata autonomamente a questo quartiere. Pensate che io per andare in centro, in Duomo, da casa dei miei, con la metro, perché poi ci hanno aperto la metropolitana, quindi ora siamo dentro la città, bellissimo, abbiamo il capolinea della Gialla, che figata, è il motivo per cui ci hanno tolto il parco e fare il parcheggio per le persone pendolari. Comunque ci metto meno tempo andare in Duomo che andare a Quarto Giaro, che è un quartiere adiacente al mio, da dove abitano i miei genitori. Proprio in termini di minutaggio con i mezzi ci metto meno tempo, se il mezzo passa quando io arrivo alla fermata, se no ci posso mettere anche molto più tempo. E se voglio andare nel quartiere prima del mio, che è Abruzzano, dove abitava la mia migliore amica, io ho due opzioni: o faccio un sottopassaggio al buio e ci metto 5 minuti, oppure ci metto 20 minuti e faccio un altro sottopassaggio, che però di notte la differenza tra 20 minuti e 5 minuti è abbastanza impegnativa, soprattutto se uno è illuminato e l'altro no. Perché? Perché non posso andare nel quartiere adiacente al mio per usufruire di un servizio, per avere una relazione sociale, perché non è economicamente rilevante, non è interessante. Questo ovviamente colpisce le persone che sono già marginalizzate in maniera maggiore, quindi le persone socializzate, donne che si identificano come tali, che tendenzialmente hanno meno accesso a una disponibilità economica rispetto alla loro controparte. Magari parliamo di persone che sono in una relazione familiare abbastanza tipica, se vogliamo usare questo termine, quindi in una relazione con una persona socializzata uomo che si identifica come tale, magari in una relazione che non è una relazione transfemminista, quindi non si basa né sul mutuo supporto né sul mutuo rispetto, mi verrebbe da dire, e che quindi magari deve fare delle scelte che in realtà non sono scelte, sono degli aggiustamenti che fa intorno alla vita della persona con cui vive, magari anche una persona che ha dei figli. Il suo tempo della vita si restringe, come pure il suo spazio di utenza. Se io non penso a dei servizi per far sì che questa persona possa avere la stessa libertà di movimento, considerando anche l'accessibilità di questa libertà di movimento, la sto automaticamente separando dal resto del tessuto sociale. E quindi non ho bisogno di una legge che dica tu non puoi uscire di casa la sera, perché tu non ci puoi uscire di casa la sera. E se ci esci è un rischio tuo, e se ti succede qualcosa è colpa tua, perché poi il processo lo fanno a te. Perché poi sul banco degli imputati ci finiscono i tuoi vestiti, le tue amicizie, le tue frequentazioni, il tuo stato di sobrietà o di non sobrietà, le tue intenzioni, le tue motivazioni, la tua sessualità. E se finisci anche in un posto in cui magari sul banco di imputazione, che a me i tribunali fanno anche abbastanza schifo, finisce la persona che effettivamente ha usato violenza, di questa persona non si considerano i contesti sociali, non si considera l'educazione a cui ha avuto accesso, non si considera la socializzazione che gli è stata inculcata fin da piccolo dentro. Si considera che a un certo punto per magia diventa un mostro, perché la vittima era abbastanza vittima, quindi va bene. Allora lui finisce al gabbio e ci dimentichiamo chi è, se finisce al gabbio. E lei dove va? Cosa rimane? Il suo percorso nel tessuto sociale, un po' di, vorrei usare la parola giustizia trasformativa, ma è veramente precoce in questo paese, cioè è una roba di cui forse parleremo tra 20 anni, applicheremo tra 20 anni. Cosa succede al suo percorso di vita? Quanto si restringe dopo una violenza, dopo un trauma, dopo aver saputo che una tua amica ha subito una violenza o un trauma? Dove andiamo? Cosa facciamo? Siamo a casa? Usciamo in gruppo? Adesso vi racconto un altro aneddoto della mia vita, che anche chi se ne frega, però vabbè. Non so se avete presente come... avete presente l'Alcatraz? Sì. Ecco, insomma. Pustas, però vabbè. Io andavo a ballare lì quando ero più piccola, io e le mie amiche, pur di non prendere la sostitutiva notturna, ce la facevamo correndo con le scarpe in mano fino in Comasina. Sono tipo un 40 minuti di corsetta, con le pause, tutto quello che vuoi. Tutto attraverso Pellegrino Rossi. Certo, perché per noi la percezione di sicurezza era maggiore così, a correre la sera scalze o con le calzamaglie o quel che l'era in minigonne era più sicuro che salire sul mezzo, che forse ci avrebbe portato a casa. Perché? Perché il problema non è solamente il tipo di servizio che non c'è a disposizione, ma l'ideologia che sta dietro anche alla costruzione di quel mezzo. Perché se l'ideologia che c'è dietro è sessista, la gente che attraversa quello spazio lo è, io non sarò mai al sicuro. Neanche se mi metti in una navetta che per magia mi porta sotto casa e mi dà anche pat pat sulla schiena, non sarò mai al sicuro. Chi ha risposto? Sì, mi ha risposto molto bene. Ho fatto capire qual era il problema alla base. No, beh, ne approfitto sul tema sicurezza, ti chiedo, il libro c'è, e, per le soggettività queer, quindi diciamo per tutte quelle persone che o si indagano o si identificano o esprimono socialmente o non esprimono socialmente la loro, diciamo, non aderenza alla norma eterosessuale, alla norma di genere. Il tema della periferia è raccontato, diciamo, soggettività queer in periferia è raccontato, diciamo, in maniera mainstream come non sono luoghi sicuri le persone queer. E qui c'è qui tra l'altro c'è un ottimo richiamo anche al, non solo alla periferia, ma anche alla provincia o addirittura al sud, non solo italiano, proprio il sud come concetto più sociale, politico, cioè, sono dei luoghi non sicuri per le persone queer e quindi queste persone queer devono avvicinarsi a... No, non bevo, grazie, l'acqua. No, sì, grazie. C'ho la gastrite. Cioè, no, ti chiedo un po' di parlare di questa cosa, cioè come è raccontato il tema della queerness in periferia, cioè la vita delle persone queer in periferia e il perché si racconta in base anche in realtà poi dei dati, dei racconti, dei vissuti che abbiamo, come la salvezza, l'autodeterminazione, la sopravvivenza addirittura avvenga dentro, nel centro, cioè più vai in centro e più sei sicuro, sicura. A partire dal, in questo caso, dall'essere queer. Ti chiedo un po' di, così, di rifletterci su questo. Allora, è una questione abbastanza complicata, ma semplicemente perché siamo abituati ad avere uno sguardo che più delle volte non è il nostro. Cioè siamo abituati a percepire gli spazi, gli ambienti, le soggettività sulla base di quello che ci è stato detto a priori su di loro. Quindi una persona queer automaticamente in un quartiere che è considerato brutto, pericoloso, attraversato da gente terribile che non può stare assolutamente negli spazi condivisi, infatti non so voi cosa ci facciate qua in una stanza con me, veramente avete un coraggio incredibile, assolutamente non ci possa stare. Questa è una narrazione che ovviamente viene dal centro, un centro che negli ultimi anni ha capito che può mettere a reddito la queerness perché fa queste cose bellissime tipo... i pride istituzionali con quei meravigliosi sponsor che ci fanno sentire tutte rappresentate e tutelate ovviamente. Quindi loro si sentono di dire che il centro è più sicuro per le soggettività queer. Intanto partiamo dal presupposto che è proprio una questione meramente statistica e come dicevi prima la statistica il più delle volte è una sottostima. Perché un sacco di gente alle statistiche non risponde per sicurezza personale, perché non sono accessibili, perché non sono fruibili, perché non gli viene nemmeno posta la domanda. Ma mediamente... siamo come gruppi sociali, noi siamo molto più diversi di quello che pensiamo, cioè la queerness è la norma, perché se non ci fosse la diversità noi non esisteremmo proprio come gruppi sociali e potremmo entrare nel merito di quanto è diversa la queerness, di che cosa rientra in questo termine, ma semplicemente se pensiamo a chi rientra perfettamente nella norma, ma è un pugno ristrettissimo di persone. Basta uscire dallo stereotipo della mascherità egemone per non essere più considerati in quella norma lì. Poi ovvio tutti i benefici che ne derivano continuano ad arrivare con un altro discorso. Comunque, le persone queer in periferia ci sono, ci esistono, ci vivono e ci muoiono. Per un motivo o per l'altro. Più delle volte di vecchiaia. Non è safe essere out in alcuni quartieri. Io lo dico perché non voglio neanche romanticizzare degli spazi che non sono così... consapevoli come dovrebbero essere. Nel mio quartiere io so che posso essere out con alcune persone, in altri contesti no, lo so. È proprio una cosa che impari in fretta dalle prime volte che senti i termini che vengono utilizzati per descrivere le persone come me, capisci che è una certa, ti devi mettere in sicurezza e spesso la sicurezza è il proteggere quella parte di identità. A volte mi è stato anche detto che è una scelta di comodo nascondersi quando a volte è una strategia di sopravvivenza. È ovvio che alcune persone possono accedere a queste strategie ad altre no, ma il problema non è quello, il problema è quello che impone queste strategie di sopravvivenza. Fatto sta che come la queerness c'è in periferia e come si vive da persone queer in periferia, l'omofobia, l'omolesbobitransfobia esiste in centro e ci si muore, perché fuori dal The Club c'è semena uguale, con la differenza che se tu sei una persona che viene considerata fuori dalla norma automaticamente sei nel torto, con la differenza che nessuno ti crede, con la differenza che se tu sei nel tuo quartiere con la gente che ti conosce da quando sei piccola, quando arrivi che qualcosa non va, qualcuno un occhio per vedere come stai te lo butta dietro, ti guarda alle spalle, ti consola, ti ascolta, magari senza avere gli strumenti, senza avere le parole perfettissime per parlare di questo e di quello, però c'è una comunità. a volte sono anche comunità, mi viene da definire, quasi protofemministe, perché non è che hanno quella coscienza, quella rivendicazione, quella consapevolezza in merito alla queerness piuttosto che al transfemminismo, ma hanno quel senso di comunità che molto spesso manca. E comunità, anche ne parlavo qualche giorno fa con un compagno che tra l'altro è uno scrittore, un attivista antispecista, si chiama Marco Reggio, che anche il termine comunità a volte è un po' problematico, perché comunque è afferente anche una serie di problematiche culturali saniste, eccetera, eccetera, ma proprio inteso come tessuto sociale, emotivo, culturale, psicologico condiviso, cioè come quello spazio di rifugio, di accoglienza e anche di riconoscimento dell'altro. E molto spesso questa cosa nel centro si spezza e si frammenta, perché se tutto deve essere messo a reddito, noi non possiamo esistere come gruppi coesi. Perché se noi stiamo bene in uno spazio in cui non dobbiamo consumare, ci basta vederci, stare insieme, mettere insieme quello che abbiamo e condividerlo, consumiamo meno e quindi valiamo meno. Allora c'è l'inversione del paradigma e ci sono quindi queste scolarizzazioni al riconoscimento delle soggettività solamente come singole individualità, ma proprio intesi come singoli portafogli che si muovono. Allora tu sei una persona così, in questo momento io ti creo un servizio, te lo rendo necessario perché nel resto della città non metto niente per te che ti riguardi, perché nel resto della città tu vieni completamente discriminata e quindi tu diventi dipendente da questo spazio. A me per prima capita questa cosa, cioè io sono una grandissima frequentatrice di Via Tadino, lo dico proprio sinceramente, Via Lecco, io ci sto bene. Perché devo sentirmi più sicura in questo spazio rispetto ad altri? E perché devo avere una percezione di sicurezza che poi magari non è neanche reale? Vi faccio un esempio veramente basic. Qualche settimana fa c'è stato un festival che si chiama MiVeg, un festival vegano che c'è a Milano. Noi lì siamo abbastanza tranquilli, sono tre persone vegane, te la cigli anche che non senti una certa dose di cazzate. E niente, a un certo punto eravamo a fine serata, stavamo lì dietro il banchetto del rifugio, poi magari parlando di cosa sono i rifugi, se non mi ammazzate prima che vi sto togliendo la voglia di esistere, ma va bene. E a un certo punto sento sti ragazzi che parlano con una delle persone che era con noi, che era lì con il cane, e dice una cosa del tipo, ah ma noi non facciamo distinzione. E sento pure lei, e io non capisco, chiedo, e questa persona che era un po' stupita quanto potevo esserlo io, mi dice, sì, dicono che loro non fanno distinzione, che si macellano pure Lady, che è il nome di questo cane. Io li guardo, inizialmente non mi aspettavo una presenza del genere in quello spazio, un festival vegano, sarà un vegano cretino che dice cazzate, non lo so, vabbè, gli dico, ma guarda, ma anche no? E questa persona mi dice, ma poi lei è così calma, è così brava. Faccio, sì, perché in questo momento non le stai facendo niente, non scambiare la gentilezza di questo cane come un invito a certe cose. E lui mi fa vabbè, e poi fa segno di imbracciare un fucile. Per una persona vegana antispecista, ma a parte per una persona transfemminista, non è divertente questa cosa, non fa ridere, però comunque è stato un momento un po' greve dove punta questo fucile fantomatico al cane dicendo ma la sediamo prima. A quel punto si sono girati i cogli e ha detto guarda, tanto prima ci siamo noi, prima che arrivi il cane, non ti preoccupare. Però è per dire, noi abitiamo degli spazi che pensiamo siano sicuri perché magari c'è una percezione, ma è una percezione, perché nell'attimo in cui esci da quello spazio le cose sono esattamente come prima, come pure viceversa quando queste cose entrano in questi spazi. Poi sta lì al gruppo sociale, alla cultura comunitaria, di fare un po' di, non userò parole che possano essere registrate, però va bene. Abbiamo una post produzione fortissima, quindi spariscono le parole, un po' come l'Unione Sovietica del 36, ma soltanto sull'audio. Battuta, scusate, facevo battute grevi anch'io. No, c'è un sacco di cose che ti volevo chiedere, ma resterò un attimino a questa cosa che avevi nominato anche tu. Una cosa che è periferismo di periferia, perché sulla fine del libro dai una serie di definizioni di femminismo di periferia che a me sono piaciute molto perché, come diceva prima Mauro, sono molto, che calano nella realtà quello che è il significato di questo concetto. È opporsi all'individualismo, opporsi alla frammentazione, come dicevi tu adesso, operata in centro perché le relazioni non sono importanti, sono importanti le transazioni economiche. Quindi il punto è come facciamo a fare in modo che le relazioni personali, emotive, affettive diventino transazione economica che mi dà qualcosa, che l'unica cosa che voglio fare è guadagnare. La contrapposizione del femminismo di periferia che tu indichi è costruire relazioni, costruire comunità. E quindi se avevi voglia di approfondire questa cosa, perché per esempio un testo che noi abbiamo scritto ormai credo 9 anni fa o quasi 10 anni fa, che è l'indice di persistenza, che noi abbiamo scritto proprio con l'intento di avere come obiettivo politico quello di costruire comunità resistenti, cioè un concetto di ricostruire il tessuto sociale intorno alle persone che ormai lasciate da sole, soprattutto nelle periferie come questa, fanno fatica a vivere. Come si fa a combattere l'individualismo e a ricostruire comunità? E come dicevi tu prima, che talvolta è anche un po' un concetto strano, cioè strano meglio, un concetto pericoloso, cioè la comunità è anche quella che dice hai capelli rossi? Ti ammazziamo perché noi non abbiamo i capelli rossi, oppure la comunità è anche quella che dice ti protegge però sei nostra, e il femminile è già voluto perché sei della nostra comunità e quindi fai quello che diciamo noi. Poi se viene qualcuno da fuori ti farà del male, ti proteggeremo, ti daremo da mangiare eccetera, però insomma, è anche, come si dice, controverso come concetto. Quindi se avevi voglia di parlare nelle esperienze che tu hai vissuto, che hai visto, tanto abbiamo fatto, dobbiamo ricordarci, abbiamo fatto anche l'invito ufficiale alle compagne e compagni dell'SMS, perché tu hai frequentato, abbiamo invitato ufficialmente, se volete venire a presentare il libro, se dici qualcosa, eccetera, perché poi la diplomazia, la geopolitica dei centri sociali è importante. E tra l'altro, perché si è registrato e si è sentito, chiediamo scusa umilmente perché abbiamo messo l'assemblea di mercoledì a novembre, e i mercoledì di novembre ovviamente le compagne e i compagni di una di meno stanno organizzando il 25 di novembre il corteo nazionale per la giornata contro la violenza sulle donne. Abbiamo fatto questo grande passo falso, però erano finiti i giorni della settimana. Mauro aveva un impegno martedì, Martina non poteva giovedì, no, non è vero, non lo so, però non poteva giovedì, quindi c'era solo mercoledì. Non è colpa nostra del tutto. Basta, se voglio di parlarci un attimino di cosa significa costruire comunità tramite il femminismo di periferia per combattere l'individualismo e l'estrazione economica. Una roba facile, hai 5-6 ore, se vuoi, prego, puoi anche scrivere. Ma sì, dai. Esatto, aspettano la pasta. Va bene, mentre aspettiamo la pasta, allora facciamo che invece di mettermi io in cattedra e dire bisogna fare così, perché questo lo possiamo far fare ai grandi filosofi maschi basic che sono tanto bravi e a me piace tanto insultarli perché hanno anche rotto il cazzo, però vabbè. Vi racconto invece del posto in cui per la prima volta in vita mia ho trovato una comunità cooperativa transfemminista antispecista, che è un rifugio antispecista che c'è a Pisa, che si chiama Ipoasi, che è uno spazio liberato di liberazione, perché è uno spazio che era nato come un territorio di sfruttamento degli animali non umani, un maneggio essenzialmente, che poi attraverso un percorso fatto dalle persone che lo possedevano è diventato via via uno spazio più liberato, e oggi è uno spazio che viene gestito in maniera cooperativa e collettiva da un gruppo di persone che, oltre a gestire uno spazio antispecista, che non so se li conoscete, però i rifugi antispecisti sono questi spazi che vengono sostanzialmente sottratti alla produzione in un modo o nell'altro, alcuni pagano degli affitti perché comunque è molto complicata la gestione, alcuni sono degli spazi occupati, alcuni sono degli spazi di cui non si ha nemmeno l'indirizzo per una questione di sicurezza, dove gli animali non umani, che normalmente sono considerati merce da reddito, vivono liberi e liberati. Questo vuol dire che loro non muoiono sotto la lama del macellaio, che loro non muoiono per la pistola cattiva, che non vengono usati come fattrici fino a che non crollano a terra in stalla e il meraviglioso e magico contadino che li ha allevati con tanta cura li taglia la gola lì dove sono in mezzo ai vitelli. Loro incontrano la morte per malattia o per morte naturale. E incontrano la morte in uno spazio in cui hanno avuto delle relazioni, in cui hanno potuto scegliere se stare o meno in quelle relazioni, se avere relazioni con gli animali umani che si occupano di loro o meno. In questo spazio loro hanno fatto una scelta ulteriore, che è stata quella di dire: ok, siamo uno spazio di liberazione antispecista, va bene, ma questo cosa vuol dire? Che gli animali umani qua come ci stanno? E quindi hanno fatto un discorso transfemminista interno che continua tuttora, perché è sempre un progredire, un divenire, per cui questo spazio è uno spazio di liberazione per tutte noi. È uno spazio in cui facciamo vita comunitaria, viviamo in una casa tutti assieme quando si è lì, si ospitano i volontari, si condividono i pasti, si può stare insieme, si può stare separati, si fanno le mansioni che si riesce a fare quando ce la si sente, senza alcun tipo di aspettativa della performance piuttosto che di imposizione della mansione, e si cospira. Si complotta insieme per qualcosa di diverso. E questo complottare, questo cospirare sono delle azioni talmente intrinseche allo spazio che io all'inizio non mi sono nemmeno resa conto di essere entrata in quella mentalità lì quando sono arrivata là. semplicemente per una volta ho detto cazzo, per una volta non mi sento di dover giustificare niente e io so di essere al sicuro. Questa cosa non l'avevo mai sentita in vita mia, in nessuno spazio che ho attraversato, in nessuna collettiva, in nessun ambiente di cui ho fatto parte nella mia vita, avevo mai avuto una percezione di totale sicurezza e ho capito che quella che stavo sentendo non era una percezione di sicurezza, che io mi sentivo in pericolo e lì avevo trovato una sorellanza. Le sorellanze sono una cosa estremamente potente perché vanno avanti nonostante fuori ci sia un mondo che rema loro contro. Cioè provate a pensare a un ambiente in cui gli animali non umani non devono svolgere una funzione da reddito, cioè non devono morire per generare profitto, ma ci sono degli animali umani che spallano la loro merda o che si prendono cura di loro o che fanno raccolte fondi per finanziare delle cure veterinarie o che sono spazi di accoglienza quando una persona magari sta affrontando un momento particolare della sua vita e ha bisogno delle sue compagne e può stare lì. Sono provata a pensare che cos'è per un sistema come il nostro un ambiente del genere. È un buco, sono una cartina di produzione e quindi gli si rema contro, con tutte le leggi, le privazioni, le costrizioni del caso. Siamo in un mondo in cui se non si lavora si muore, perché se non lavoriamo, o almeno se non si guadagnano soldi, non possiamo nemmeno comprarci da mangiare, perché per noi è normale spendere soldi per nutrirci. Come se potessimo considerare normale questa cosa. È assurdo pensare che noi per esistere dobbiamo pagare dei soldi, che per avere quello che per ognuna di noi può essere il minimo sindacale dobbiamo comunque sottostare a una contropartita tempo lavoro salario. È assurdo. E incontrare uno spazio che sovverte interamente questo paradigma significa trovare uno spazio resistente. E di spazi resistenti ce ne sono tantissimi. Non vorrei dirvi guardiamoci intorno, perché mi sembrerebbe quasi banale, un po' così, un po' people pleaser come cosa, però insomma. Il fatto è che le nostre resistenze sono ovunque e per quanto possa essere triste da pensare, a volte sono anche individuali, perché a volte ci sono, anzi a volte, nella maggior parte dei casi noi iniziamo a resistere da sole. Lo iniziamo a fare senza sapere che c'è qualcun altro che la pensa come noi, nelle nostre condizioni, che vede le cose come le vediamo noi, che le interpreta come le interpretiamo noi o che ha bisogno di essere riconosciuto in maniera affine al modo in cui vorremmo essere riconosciute noi. E quindi cominciamo un atto di resistenza che è essenzialmente sopravvivenza, che diventa resistenza nel momento in cui viene rivendicato ed è politicizzato e incontra un gruppo. E questa forse è la cosa più straordinaria, che in realtà non è che ho inventato niente, cioè ve lo dico molto sinceramente, sono anche un po', boh, è un po' una super cazzola la mia esistenza. Però vabbè, nel senso, cioè, è quando si fa gruppo che le cose cambiano. Intanto perché nel momento in cui si esiste in una maniera antisistemica si sta già dimostrando che la voce del padrone dice cazzate, che o è così e così. Non è vero. Già facciamo una cosa diversa, quindi state zitte che dite una cacata. E va bene così. Io francese. Esatto. Oui. Ma soprattutto si crea la possibilità per costruire una rete molto più grande. E questa rete è enorme e noi spesso non ne abbiamo contezza, perché è la cosa più importante che fa il nostro sistema culturale insegnarci che siamo sole, che nessuno ci vuole, che nessuno ci ascolta, che non siamo rilevanti a meno che non incontriamo determinati standard che sono quelli del successo economico, monetario, sociale, chiamiamolo come vogliamo. Ma in realtà non è così. E la cosa ancora più straordinaria è che i poteri di cui noi abbiamo i nomi e i cognomi sono pochissime persone, perché l'1% più ricco del mondo e l'1% della popolazione mondiale, ma chi cazzo sono? Non sono niente. Queste sono persone che banalmente 300 persone politicizzate e incazzate potrebbero spodestare volendo, perché cos'è l'1% del mondo? Non è niente. Eppure noi sottostiamo i dogmi di questo 1%, sottostiamo i dogmi del potere, sottostiamo i dogmi del vertice, perché abitiamo questa cultura. Il giorno in cui però noi ci rendiamo conto che è semplicemente una questione di punto di vista, di prospettiva e di coscientizzazione, che è una parola difficilissima da dire, non so perché mi è uscita tutta di fila, sono commossa ed emozionata, va bene così, perché sono bollitissima oggi, mi dispiace. Noi quel loro mondo di merda, ma glielo bruciamo in 5 minuti. Ed è questo ciò di cui hanno paura, è il motivo per cui ci insegnano che la comunità è sbagliata, che il nostro stare insieme è sbagliato, che è un problema se non ce ne frega un cazzo degli status simboli, degli status quo. Perché hanno paura? Perché lo sanno benissimo che nel momento in cui le persone, le periferie del mondo si girano dall'altra parte e smettono di guardare al centro e smettono di voler essere al centro e di conformarsi al centro, loro hanno smesso di esistere. Perché il potere funziona per riconoscimento. Se noi glielo togliamo, loro non valgono più niente. E quindi cosa fanno? Ci insegnano che in realtà siamo noi ad essere in debito con loro, quando in realtà dovrebbe essere esattamente il contrario. Perché chi in qualche modo dovrebbe fornire un servizio alla comunità, se così vogliamo chiamare quella cosa atroce che è la nostra politica attuale di camera e di palazzi e di poltroncine e di grossi stipendi. E che in realtà chi rende questo servizio è essere in debito con la comunità, perché è la comunità che gli ha dato la possibilità di fare qualcosa, non il contrario. Non siamo noi a dovere qualcosa a loro, sono loro che ci devono tutto. In questo momento, ed è un momento che è cominciato un bel po' di tempo fa, loro sono in completo fallimento rispetto a noi e ci devono qualcosa. E a un certo punto, se non ce lo danno, ce lo andiamo a prendere. Scusate, sono stata proprio nella mia. Bravo, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Grazie. Io ti volevo sulle forme rivoluzionarie, Mauro, ti vedevo già che ti illuminavi sulla rivoluzione, ti vedevo e mettevi onde. Possiamo chiudere tutto e andare a casa, per cortesia, cioè, nel senso. Qui. Non è ancora pronta la pasta, per cui bisogna andare avanti per forza. Il problema è che erano i bolscevichi. Però, no, adesso tantissime cose. Dico una cosa velocissima sul il tema queer e poi ti faccio una domandona. No, perché secondo me è uno delle... Vabbè, aspetta, dico la cosa queer. No, interessante Milano rispetto a tante altre città, perché noi pensiamo ai quartieri LGBT. Cioè, se tu chiedi a una persona che cos'è un quartiere LGBT, ti dice una... ti può dire tante cose, ma quello che ti dirà è che ci sono anche i locali. Quello è un punto in comune dalle varie risposte. Ci devono essere dei bar, dei locali. Perché? Perché è vero che la socialità per alcuni soggetti in alcuni momenti storici è stata la presa di parola, la presa di coscienza, in alcuni casi anche l'inizio poi della presa di parola pubblica, azioni vere anche. Il problema dei quartieri LGBT è che sono nati, se pensi anche a alcuni quartieri LGBT degli Stati Uniti, sono nati come forme di mutuo soccorso. Mi cacciano di casa, scappo di casa. Sono molte, per esempio, siamo a New York, a Stonewall, sono migrante o persona razzializzata, in più queer, diremmo oggi, e chiedo aiuto, e chi chiedo aiuto alle persone come me, e non a quelle che mi hanno reso in questa situazione. Quindi nascevano come luoghi sicuri, come luoghi di comunità, come i quartieri LGBT hanno inventato le parole LGBT, hanno inventato quello che qualcuno aveva definito la linguistica lavanda, cioè nuove parole per definirsi, uno slang, per il gay radar è nato lì, è vero, cioè proprio il termine, no? E in pochissimi anni noi vediamo che invece i quartieri LGBT sono completamente cambiati. Il problema non è tanto il cambiamento in sé, perché quello è stato letto abbastanza cioè il capitale che ha capito ci sono fette di mercato su cui si può ben investire, è la velocità con cui sono cambiati che fa paura. Il quartiere LGBT di Milano, per alcuni è nato, cioè se tu chiedi ad alcune persone il quartiere LGBT di Milano è Porta Venezia, ma se tu chiedi a una generazione più grande, quindi persone che hanno 60, 70, 80 anni e che sono rimaste a Milano in questi anni, il quartiere LGBT era la stazione centrale. La stazione centrale tra una vietta vicino alla stazione centrale, via San... Oddio, non mi ricordo. Vabbè, ci sono ancora dei locali tra le altre. San Martini, grazie. Via San Martini. Tra l'altro, la stazione centrale è stato anche un luogo di rifugio tra Centrale e Gioia per un'intera generazione, forse più di una, dicono, di persone transgender, sex workers anche, un botto di persone. E lì, ed è la stazione centrale. Porta Venezia invece, a detta di alcuni, è arrivata dopo, perché Porta Venezia, noi sappiamo, non era legata tanto alle questioni LGBT, ma era una di quelle situazioni abbastanza classiche nel post boom economico, cioè, i ricchi vivevano in Brianza, i ricchi, cioè, aveva la villa in Brianza, il quartiere di Porta Venezia, diceva Tadino, Lecco, cioè, era una comunità di tre etiope, cioè manovalanza, sottoproletariato, lavoratori o lavoratrici, la maggior parte in nero, vivevano lì, vivevano in quella che oggi è Porta Venezia. Tant'è che questo è visibile su Milano, per esempio, tra locali, popolazione, negozi, questo lo vedi ancora. Per alcuni, e qua chiudo su questo tema, Porta Venezia è diventata LGBT quando la metro ha messo le strisce rainbow. Esatto, tra le altre, le cose rainbow non le ha messe la metro, le ha messe Netflix e ha pagato Netflix. Cioè, capito, neanche dici una scelta, ha pagato Netflix. Ci fu un mega pride tanti anni fa in cui Netflix era lo sponsor e mise tanti soldi per il pride, e quello l'ha fatto Netflix. Poi la TM ha deciso che rimaneva perché era bella, perché era figa e perché evidentemente uno degli altri sponsor, che sono il commercio in realtà di Porta Venezia, aveva chiesto di lasciarli perché insomma è stimolante questa cosa. Io ho aperto la libreria in Porta Venezia prima del ve lo giuro. Però è vero, io è vero, cioè ho fatto una scelta rientrando in alcune logiche, c'è cioè un luogo facile da raggiungere, in centro, c'erano già alcuni locali. Tra l'altro io sto in quella parte di Porta Venezia dove c'era uno dei primi locali, che era l'Elephant, che adesso non c'è più da parecchi anni, e lì dietro c'era anche una delle primissime saune gay degli anni 50. Io che abito, mia mamma abita in fondo alla via dove tu hai la libreria, in fondo oltre via Kramer, eccetera. Mi ricordo le frasi sessiste che ci dicevamo quando passavamo davanti all'Elephant. Mi hai sbloccato un ricordo terrificante. È stata la nuova via LGBT. Comunque, ci ha detto. La domanda, il tema è molto interessante. Parto perché mi è venuto in mente adesso che parlavi dei rifugi. Perché noi siamo abituati a pensare, è una riflessione con domanda dentro, non so se arriva da un punto di domanda, però noi siamo abituati a pensare non solo alla città come luoghi in cui trovi anche della natura, parchi, parchetti, aiuole, proprio così, però siamo abituati a pensare alla città come misura, cioè la città è su misura delle persone, sì, forse anche dei loro animali domestici. Però se un cinghiale entra in città è il panico, se un orso si avvicina a un luogo abitato e a differenza delle carceri Milano c'è anche Milano c'è anche questo pregio tra virgolette. Sono un grande lettore di Foucault e Foucault lo studia molto bene. Le carceri, per come le conosciamo oggi, sono sempre state nel centro della città perché devono essere visibili, cioè perché il potere diceva guarda che quella è San Vittore, è in centro, tant'è che c'era un progetto, non so se c'è ancora, di spostarlo. Perché Milano è una delle pochissime città che ha un carcere così visibile. E dico visibile perché i carceri stanno fuori. Perché quello che succede là dentro non deve essere troppo sentito, visto, eccetera, eccetera. Perché, come dicevi tu prima, non deve essere facilmente raggiungibile, soprattutto. E c'è un altro elemento che è messo sempre fuori, che sono i macelli, gli allevamenti. Cioè, in città questo non lo vedi. Cioè, noi vediamo... gli animali non domesticati o nella forma di cadaveri o ogni tanto in autostrada quando li trasportano in determinate condizioni, ma poi sì, abbiamo i video, c'è chi fa azioni di liberazione, film, eccetera eccetera, però i macelli sono fuori perché noi con la natura, e questa poi ti lascio parlare, abbiamo questo, con quello che noi definiamo poi natura, cioè abbiamo questo tema qua, cioè vogliamo il via l'alberato, però poi arriva il diluvio a luglio, cadono gli alberi, si bloccano i mezzi, non puoi parcheggiare, si è rotta la macchina, non va al lavoro, disastro, affanculo il tempo. I macelli sono fuori perché non dobbiamo vedere e sentire che cosa succede, però poi se parli di veganismo dici no, ma è una roba per ricchi, costa troppo, eccetera eccetera. Cioè è tutto un Milano in questo è molto brava. Milano è stata sempre definita una città un po' vetrina, che più che quello che mostra è il dietro le quinte che poi va che va indagato, va visto. Ti chiedo un po' di parlare di questo, un po' natura, città, chi vive la città, chi non vive la città, chi pensiamo non debba vivere la città, anche insomma, sotto questo punto di vista. Guarda, hai tirato in mezzo due delle cose su cui mi piace di più tirare delle filippiche cosmiche. No, scherzo, non vi preoccupate. No, allora in realtà magari partirei proprio dall'ultima cosa che hai detto. Chi può vivere la città? Allora, partiamo dal presupposto che le città sono escludenti per natura. C'è un gruppo di soggettività a cui è concesso a determinate condizioni di entrare alla città. Mano a mano che queste persone vengono identificate e sovrascritte sulla base dell'identità che indossano, questo paniere di accessibilità si riduce sempre di più fino a generare altre forme espulsive. Io prima parlando ho fatto una distinzione dicendo animali umani e animali non umani, perché noi abitiamo una ingenua e sciocca convinzione che è quella di non essere animali. Noi siamo esseri umani, quindi siamo un'altra cosa. Siamo nel regno animale, scientificamente ci arriviamo, però noi siamo un'altra cosa. Questa scissione assoluta uomo-natura è erede in parte della dottrina di tanti pensatori, tra cui quello stronzo di Cartesio, che io odio con tutto il cuore, e spero che per qualche motivo possa rigirarsi nella tomba, perché un paio di insulti si deve prendere, perché uno dei grandi metodi con cui Cartesio dimostrava le sue brillanti teorie secondo cui noi eravamo altro, noi eravamo mente, era torturare gli animali e far vedere che il loro dolore era meccanica. Lui ha inchiodato a delle assi il cane di sua moglie, quello che viveva con lui, per dimostrare a un gruppo di studenti, che io non so cosa possano aver pensato dopo aver visto questa roba, onestamente non so perché Cartesio fosse ancora vivo dopo sta roba, che era solo meccanica la sofferenza dell'animale. Noi siamo figli di questa cultura e quindi pensiamo non solo che loro siano un po' meno che soggetti, qualcuno un po' più soggetto perché dai, col cane ci vivo, ci dormo insieme, li voglio tanto bene, però sempre le mie condizioni e i miei ritmi di produzione di vita, ma gli altri non sono oggetti, gli altri non sono soggetti, sono cose. E io di queste cose dispongo come meglio credo. Li metto negli allevamenti, li faccio crescere, li ibrido. Ci faccio degli investimenti perché la genetica, l'ingegneria genetica da questo punto di vista ha fatto dei passi da gigante straordinari. Non so se avete in mente cosa sono i polli broiler. I broiler sono polli i cui corpi sono stati ibridati in modo tale per cui la loro crescita fisica è sproporzionata rispetto alla loro capacità di movimento. Quindi loro sono volutamente disabilizzati per produrre più petto, così che in quei 45 giorni di vita che fanno nei capannoni, dove spesso lasciano le luci accese per incentivare il processo di crescita, anche se questa cosa non è lecita, ma noi della legge ce ne possiamo anche battere, perché se lo fanno i padroni, perché dovremmo curarci noi della legge, comunque sono fatti crescere in questi 45 giorni per produrre più petto di quanto farebbe un pollo che non rientra nella categoria broiler. Sono animali che vengono fatti nascere e muoiono dopo 45 giorni. Noi li vediamo? No, sappiamo che esistono, sì, perché ci sono delle associazioni che fanno le investigazioni e ce li portano, però anche lì noi vediamo un'immagine filtrata, la fruiamo attraverso la televisione in una cornice che comunque non fa un discorso antispecista. Quindi al massimo ci fa dire, ah, in quell'allevamento lì li trattano proprio male, ma sicuramente non è lo stesso da cui compro io le carcasse. Quello sarà certamente diverso, perché lì gli animali li trattano bene, perché sono felici di saltare sul coltello. Sì, perché glielo dicono, perché è biologico, perché le galline d'allevamento a terra sono felici di crepare di peritonite perché sono state ibridate per produrre più uova di quanto potrebbero, perché il latte di campagna, mi raccomando, le vacche di campagna sono più felici di quelle da stalla intensiva quando vengono inseminate forzatamente o quando gli separano il vitello, perché non sa mai che questo se ciucci il latte deve andare al macello oppure deve diventare un'altra vacca da latte e via con questo ciclo infinito. Queste cose noi non le dobbiamo vedere. Non le dobbiamo considerare, devono stare fuori, quindi stanno nelle periferie della periferia. Ci sono intere città che sono impestate dalla puzza di merda e di sangue che escono dai macelli e dagli allevamenti. Però queste cose nel centro della città non dobbiamo vederle perché fa puzza, fa brutto, dai, cioè è poco decoroso, no? Questa è una parola che piace tanto alle città, il decoro. Che gli saltasse in faccia sto decoro di merda. Comunque, il punto è che queste soggettività non hanno diritto di stare in città. In città ci possono entrare altri non umani, quelli che vivono con noi, possibilmente di razza, comprati, perché anche lì ci deve essere tutto il circolo di produzione, mi raccomando, e in città ci devono stare le nostre condizioni, nell'area cani, non fuori dall'area cani. Devono fare i bisogni esattamente dove decidiamo noi, all'ora in cui decidiamo noi. Cioè provate a pensare, estraniandovi, sapendo che ovviamente non è che noi possiamo far finta di essere non umani, perché è una cosa tragica e non ci appartiene. Cioè noi siamo situati come corpo e siamo un corpo oppressore, in questo senso ce lo dobbiamo anche riconoscere per smantellare questo sistema che abitiamo. Provate a immaginare che cosa vuol dire stare in uno spazio in cui ti dicono quando, dove, come puoi cagare, pisciare o interagire con i tuoi simili. Se e quando lo puoi fare. Magari vivere tutta la vita in un ambiente che è adatto a te, in cui non ti puoi girare senza far cadere qualcosa, e magari ti prendi pure due pattoni se hai fatto cadere il vaso, perché sei pure stronzo che hai voluto giocare. Questo spesso è il contesto di vita in cui vivono gli animali non umani domestici. Domestici da compagnia, che quindi hanno anche... Invece, peraltro, possono anche subire l'inversione suprema di questo, che è l'antropoformizzazione, per cui vediamo questi bulldog francesi che vanno in giro con i calzini, perché, oh mio Dio, non sia mai che toccano per terra, che questi non riescono a camminare, non riescono a stare stabili, perché gli manca il contatto col terreno, che è fondamentale per loro, e li portano in giro col passeggino senza che ci sia una necessità, perché fa carino. Che io dico, ma vorrei sapere il primo pirla a cui è venuta in mente questa roba chi era, perché vorrei conoscerlo per capire. Però sono tutte delle forme di deumanizzazione, di specismo benevolo, con cui continuiamo a reiterare questa condizione, questo meccanismo per cui noi siamo un'altra cosa. Sorpresa delle sorprese, anche noi siamo animali e anche noi abbiamo bisogno della natura e di una natura sana. Oggi, purtroppo, nonostante l'evidenza che non solo è statistica ma è pratica visibile e tangibile, Valencia ce l'ha ricordato lo scorso anno, noi, se la natura non funziona secondo dei ritmi che sono anche compatibili con la nostra vita, noi smettiamo di esistere, perché siamo parte della natura. E anche questa cosa che ci aiuta spesso a dissociarci dalla natura, no? Il credere che noi siamo portatori di cultura. Anche gli animali non umani hanno cultura. Gli animal studies lo dimostrano da decenni. Eppure la loro cultura è sempre declassata qualcosa di diverso. Il fatto che le balene si passino dei canti da secoli e che ogni membro che si aggiunge ai gruppi possa aggiungere un pezzo a queste canzoni che loro si tramandano non è rilevante. Il fatto che i corvidi abbiano dei riti funebri che si ricordino dove un membro dello stormo è stato ucciso oppure morto non è rilevante. Il fatto che comunico, il fatto che noi stessi comunichiamo con gli animali con cui abbiamo interazione non è rilevante. Perché? Perché se loro sono meno che soggetti, noi gli possiamo fare qualsiasi cosa. E allora quando il cane morde gli posso sparare in testa, non mi posso chiedere non mi devo chiedere nemmeno perché ha morso. Quando la vacca non produce più abbastanza latte, la mando al mattatoio e mi ci faccio tra gli 800 e 1000 euro e non me ne frega niente. Se loro non sono cose, se loro sono solo cose, non sono soggetti, quando vado a casa e mi apro una busta di prosciutto, io cosa vedo? Vedo un prodotto lavorato. Non vedo la coscia che è stata squartata da un cadavere che prima è stato trasportato in mezzo alla merda, in mezzo ai suoi fratelli e alle sue sorelle, e prima ancora è stato allevato e probabilmente mutilato e massacrato di botte per arrivare a quel processo. Io tutto questo non lo vedo. E la città mi aiuta a non vederlo. E la città cosa fa quando poi entrano gli altri animali non umani espulsi, selvatici? Uccide. Perché sono un po' stronzi i cinghiali. Perché ovviamente hanno un territorio depauperato. Hanno delle risorse in continuo calo, se questi osano entrare e mangiare qualcosa dalla spazzatura, si apre la caccia al cinghiale. Se gli orsi vanno in giro sulle... Cioè questa cosa degli orsi secondo me è veramente esemplificativa di tutto. Gli orsi sono stati reinseriti in Trentino, con grande fatica. Poi a un certo punto le persone si sono resi conto che se gli orsi stanno in Trentino, gli orsi abitano il Trentino. E quindi, sorprese le sorprese, vanno in giro per i boschi. Cioè rendiamoci conto di quanto possiamo essere cretini certe volte. Vanno in giro per i boschi e può succedere che ci sia un contatto con delle soggettività umane. È inevitabile. È quello che succede quando noi attraversiamo un territorio abitato da altre specie. Ma visto che noi non conviviamo con le altre specie perché ci crediamo superiori, nel momento in cui si realizza anche un avvistamento, un contatto, parte la caccia all'orso. E troviamo le mamme orse uccise, troviamo i loro cuccioli uccisi. Con furie di proiettile, però, è una morte accidentale, perché poi le giunte si nascondono dietro questi fantomatici diti di carta che sono la loro burocrazia, fanno finta che non sia stato il bracconaggio che incentivano e quindi va tutto bene. Quindi di fatto noi continuiamo a uccidere in maniera sistemica e costante tutte le soggettività che semplicemente esistendo ci dimostrano che non solo noi siamo parte della natura, ma che noi stiamo distruggendo il nostro ambiente e il loro ambiente, e siamo delle entità oppressore? Opprimenti? Ok, quello, grazie. Perché noi questa cosa non ce la vogliamo accollare. Ed è in questo forse che il transfemminismo fa il più grande assist all'antispecismo, perché il transfemminismo si basa sul riconoscimento dell'altro da noi e sul andare oltre la lotta per la propria libertà, le proprie necessità, che è fondamentale, sacrosanta e legittima. Ma anche lottare contro tutte quelle cose che ci avvantaggiano e che sono ricavate sottraendo libertà ad altre soggettività. Perché il transfemminismo ci fa spogliare completamente dei nostri privilegi quando fatto con le compagne, con anche dei processi che possono essere dolorosi e conflittuali che dobbiamo accogliere. Però ci fermiamo quando arriviamo al dominio di specie. Perché nessuno vuole essere l'ultima ruota del carro. E perché il potere dà la testa, al punto che noi veramente ci illudiamo che vada bene con tutte le cose che abbiamo adesso intorno a noi, con tutte le consapevolezze, continuare ad andare al supermercato e comprare una busta di prosciutto. Poi gli arriva il sistema che ci mette in bocca le sue parole dicendo: ma essere vegana è una cosa ricca, grazie al cazzo, se te vuoi mangiare surrogati la mattina e la sera, ma è come fare un'alimentazione di sole hamburger, santo Dio, non è una cosa sana. Cioè, la cucina vegana, soprattutto in Italia, è afferente anche a una tradizione molto povera. Perché se noi andiamo a vedere storicamente, questo ovviamente non fidatevi di me, cioè andatelo a vedere per conto vostro, come è giusto che sia. Cioè, le tradizioni povere in Italia, salvo le zone costiere, tendenzialmente si basavano sul consumo di cereali, legumi e verdure. Perché? Perché quella è la cucina dei poveri. In Toscana si mangiava la ribollita per una settimana, la pappa al pomodoro, la polenta. La carne è sempre stato il cibo della ricchezza, è sempre stato il cibo dei padroni, anzi, proprio per questo abbiamo imparato a guardarlo come qualcosa da desiderare, ed è il motivo per cui negli anni 50, quando hanno aperto queste fabbriche terrificanti e sistemiche degli allevamenti intensivi, la carne è stata venduta come un arrivo sociale, perché se tu ti puoi comprare la bistecca, non sei più solo l'operaio sottopagato, sei l'operaio sottopagato che se può mangiare un cadavere al giorno. Che ti faccia bene o male, non ce ne frega un cazzo. Che questo sia giusto o sbagliato, non ce ne frega un cazzo. E tu sarai educato a difendere il tuo dominio di specie. E poi ancora oggi questo dominio viene difeso in maniera strenua, costante. Poi è ovvio, se una persona venisse da voi a dirvi dovete vivere di soli surrogati vegani, questa persona non so quanto sia antispecista onestamente, ma sicuramente non sta facendo un discorso di senso. Ma adesso vi dico l'ultima cosa su questo, poi mi taccio, perché sennò veramente vado avanti le ore. C'è un'altra cosa estremamente problematica, che spesso è anche afferente poi al movimento antispecista, perché il movimento antispecista non trasfemminista, Dio ce ne scampi, cioè ve lo dico da persona che attraversa entrambi i mondi, a volte è veramente difficile capire dove cazzo stare, per fortuna c'è il transfemminismo antispecista, c'è spesso questa convinzione che sia una roba voluta, pensata, ideata dalle persone bianche. Questa è un'altra grandissima cazzata. Ed è il motivo per cui ci serve una lente decoloniale, perché spesso le alimentazioni vegetali, le alimentazioni che non contemplano il consumo animale, o perlomeno che non lo contemplano con la frequenza a cui siamo abituati o che immaginiamo essere consona, sono delle alimentazioni che sono afferenti a diverse tradizioni, che non sono necessariamente quelle delle regioni italiane. Spesso parliamo di alimentazioni decoloniali che sono quelle che sono più armonizzate rispetto alla convivenza umani-non umani. Addirittura negli Stati Uniti, visto che c'è questa fortissima spinta espulsiva, che se qua è forte lì è traumatica, è terrificante, si sente non appena si entra in una di quelle città, verso dei quartieri esterni periferizzati e non servizi, l'alimentazione vegana è diventata uno strumento per alcune comunità razzializzate per sopravvivere a quella che loro stesse hanno definito essere una apartheid alimentare, per cui loro rifilano solamente cibo di merda, supermercati che vendono cibo iperprocessato, un'iperpresenza, un'iperrappresentazione dei fast food, come se questo fosse sintomo di un'alimentazione adeguata, come unica risorsa a loro disposizione. Quindi il veganismo, anche la riscoperta poi di alcuni alimenti tradizionali, diventa sì una rivendicazione per decolonizzare la tavola, lo spazio condiviso e lo spazio comunitario, ma anche un vero e proprio strumento di sopravvivenza. Perché tutta sta carne che ci mangiamo, raga, non lo dico io, lo dice, io non la mangio, però vabbè, l'OMS è riconosciuto essere un cancerogeno. Questa roba non fa bene. Il latte, non è che siamo tutti intolleranti al latte vaccino perché, oh mio Dio, è un alimento pensato per nutrire un animale che tendenzialmente alla nascita è già il triplo di me. Grazie al cazzo che ci fa male. Cioè, provate a pensare alla relazione inversa. Un animale non umano che prende il latte da un animale umano. Vi fa impressione. Perché il resto non ci fa impressione? Perché non ci schifa l'idea di prendere del latte materno di un altro vivente? Cioè, la gente si impressiona per il latte materno dei suoi conspecifici, figuriamoci degli altri. Perché, come al solito, viviamo dei percorsi di marginalizzazione che sono parte di noi. E quindi dobbiamo fermarci e destrutturarci. Con tutti i limiti del caso, con tutte le difficoltà del caso. E questo era per dirvi che stasera la pasta è vegana. Comunque, stavo per dire a Mauro, se avevo la stessa sensazione, è come stare seduti vicino a un barile di dinamite, no? Cioè, continua a vibrare, Martina, ho paura che salti in aria e travolga. No, grazie. Prego. Mi hai fatto due cose velocissime. Il primo non mi ricordo dove, ma o forse quando, perché magari me l'ha detto forse Marco Reggio, non lo so, però è sempre Marco, sì, però è una cosa interessantissima. Il dispositivo per cui noi non dobbiamo vedere, sentire, annusare, eccetera, eccetera, che cosa facciamo nei macelli? Noi lo vediamo anche nei documentari. Nei documentari, anche quelli belli, fatti bene, anche se comunque c'è, insomma, c'è il punto di vista è quello antropocentrico, ma qui si potrebbe parlare, non importa. Però, insomma, nei documentari noi sentiamo il verso dell'animale, noi sentiamo l'uccellino, noi sentiamo un animale che ringhia, anche incazzato, noi sentiamo gli animali che lottano tra loro, i versi che fanno. Noi non sentiamo quando un animale viene preso, mangiato da un altro animale. Lì si muta il documentario, mettono il suono, mettono la musica. Perché noi non siamo. Loro non possono scioccarci così tanto nel far sentire un animale che soffre. Non ce lo fanno sentire un animale che soffre, perché se noi sentissimo quei suoni, e poi rimangono qua. E questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. La seconda cosa che mi è venuta in mente, invece, sulla caccia all'orso, sulla caccia in generale, ma sull'ambizione nel mangiare carne come desiderio, come quello che è stato, dicevi, no? Una scalata anche sociale, una crescita del nucleo familiare, eccetera, eccetera. C'è tanto, e qua vedi anche i legami, le letture, c'è tanto costruzione del maschile. Cioè l'americano medio è quello che fa, ma dai film, dai cartoni animati, quello che fa la griglia, quello è l'uomo. Però non è l'uomo ricco, eh? È l'uomo lavoratore che la domenica con gli amici si fa, è lui che griglia questa roba qua. Come anche, forse adesso un po' meno, probabilmente un po' meno... diciamo nella mia rete, per quello che riesco a intercettare io, un uomo vegano è meno è uomo meno, non tanto è frocio, non è frocio, è uomo meno, cioè qualcosa in meno, questa roba qua è... E andare a caccia degli orsi, come lo fecero sui lupi, anche lì inseriti, cioè prima vieni inseriti, poi si sono accorti che si riproducono e ce ne sono troppi, quindi andiamo a caccia. Sì, si sorprendono ogni 10-15 anni, si sorprendono. Questa roba qua è un rituale collettivo, sociale, importantissimo, no? Per il mantenimento della scala di dominio. Andiamo a caccia. Cioè, dica, sta cosa noi ce l'abbiamo nel DNA. Noi andiamo a caccia perché salviamo la nostra comunità, perché andare a caccia rafforza anche i legami maschili, sopprime i legami omoerotici, sessualmente desiderabili, nascosti, perché là ti sfoghi, perché il fucile è il prolungamento del tuo pene dritto e da lì esce non la vita, la morte. La morte di un altro che deve aver davanti, che deve essere preso, portato, non per forza macellato, no? Però quello è il trionfo, cioè, e questa roba qua collettivamente in città questa cosa non la vedi probabilmente, non lo so almeno, in città, metropoli dico, no? Cioè, questa cosa qua la vedi meno. Se mi ero finito, in realtà mi collego perché in virtù del lavoro che faccio, perché vado a fare muratore anche se non sono ancora capace, ho iniziato a lavorare con degli artigiani di Rozzano, in realtà gli artigiani dell'Interland milanese, del sud Milano sicuramente, ma se ho capito bene un po' di tutta Milano, sono tutti quanti tendenzialmente, la traiettoria è, hanno giocato a calcio, moglie a carico con bambini e bambine, casa in montagna, cacciatori, cioè tutti quanti sono cacciatori. Sì, o vanno a pesca, esatto, quindi c'è tantissimo questa cosa. E poi vabbè, la cosa che giustamente diceva prima Mauro riguardo alla caccia, l'altra una volta una compagna giustamente mi spiegò quello che era la sua opinione, quello che aveva imparato lei in base a quello che aveva studiato. Se la donna è il centro della società perché detiene la vita, perché esseri, modo di produrre altri esseri umani non ce n'è se non tramite una donna, il maschio gli rimane il ruolo di protettore del soggetto che produce la vita. E tra i ruoli di protezione c'è andare a caccia, cioè proprio fisicamente il compito era andare a prendere il cibo che c'era in giro, che poteva essere le piante o gli animali, quando come ancora fanno alcune poche tribù, si era in equilibrio con la natura, quindi si ammazzava quello che serviva, eccetera, eccetera. Vabbè. Per cui sì, sicuramente c'è tutto un legame sul rispetto al legame al mangiare carne che riguarda anche un po' i ruoli atavici dei soggetti. Io a questo punto, Martina, volevo fare due domande che riguardavano il ruolo, a questo punto, dato che mi pare che sull'argomento sei abbastanza, come si dice, attivata. Bookchin afferma che gli esseri umani dovrebbero prendersi la responsabilità di essere quello che sono, quindi degli animali che sì sono animali ma che hanno anche una serie di accessori in più degli altri animali, e provare a prendersi la responsabilità di correggere il male che hanno fatto, o anche alla natura, o anche fare in modo che la natura si sviluppi meglio, perché non è che le specie si estinguono soltanto perché c'è l'essere umano, le specie si estinguono anche a prescindere dall'essere umano che c'è, o succedono cose che distruggono la natura, e uno potrebbe anche domandarsi perché deve succedere esattamente questa cosa. Quindi se hai voglia, ma è una domanda veramente da 130 giorni e 7 libri probabilmente, qual è secondo te la versione per cui quale dovrebbe essere il rapporto corretto tra uomo e natura, e se c'è anche un rapporto in cui l'essere umano può anche mettersi un attimino a gestire la natura, tornando a fare un po' quella cosa sbagliata ma dal lato giusto. E poi invece ti chiedo una cosa sulle periferie, anche perché in realtà hanno buttato la pasta, quindi tra un po' si mangerà anche noi qui, se siamo sempre lì. Però prego. No, davvero, mi è venuta la compagna prima, cioè, come siamo con la pasta? Quasi, quasi. Dai. Allora, ti posso dire quello che penso io, che è un posizionamento antispecista. Io non penso che gli esseri umani abbiano qualcosa in più. Abbiamo qualcosa di diverso perché siamo una specie in un sistema biodiverso e quindi automaticamente c'è questa diversità. Credere che abbiamo qualcosa in più, secondo me, può essere problematico perché ci pone di nuovo in una posizione di superiorità, e anche questa tendenza a voler fare i custodi degli equilibri naturali è un problema, perché a questo punto ci ricolleghiamo a un altro dei grandi spazi che spesso si trova nelle città, e guarda caso in questa città ce n'è uno scheletro che non a caso è in un parco intitolato a un colono bastardo fascista e stupratore, che sono gli zoo. Gli zoo sono, adesso vengono raccontati come spazi per la conservazione, per tutelare quelle specie dall'estinzione. Posto che già rimuovendo il danno che facciamo noi smettendo di iperprodurre, iperconsumare e trivellare la qualsiasi, che sembra che non sappiamo fare altro nella vita, invece sappiamo fare un sacco di cose, dovremmo dare tempo agli ecosistemi di riequilibrarsi, sapendo che gli ecosistemi funzionano contemplando, fra virgolette, anche il disequilibrio, nel senso che poi si generano nuovi equilibri. Gli esempi lampanti li vediamo con le specie dette invasive, che è un termine che io trovo aberrante, perché non è che sono invasive, che se la natura è in disequilibrio automaticamente c'è una specie che prende il sopravvento, funziona proprio così, perché si deve autobilanciare. Servono dei periodi in cui questo sbilanciamento automaticamente porta a una moria della specie, quindi c'è di nuovo un riciclo, un nuovo equilibrio, e quindi si va avanti. Questa cosa che dobbiamo preservare alcune vite a tutti i costi, secondo me è un po' un problema tutto umano, del fatto che noi non sappiamo accettare la morte come un fatto della vita. Io mi permetto di citare una grandissima compagna che è Angela, ed è una persona che gestisce un rifugio antispecista che è a Grugno clandestino, che lei dice: noi non lottiamo contro la morte, perché sennò avremmo perso in partenza. Noi lottiamo contro lo sfruttamento, noi lottiamo contro il dominio, lottiamo contro l'oppressione, lottiamo contro il fatto che qualcuno si arroghi il potere di decidere chi deve vivere e chi deve morire, perché alla fine è sempre tutto afferente allo stesso discorso. Quindi io non penso che dovremmo diventare custodi della terra, anche perché mi sembra estremamente deagentivante nei confronti degli animali non umani, che potrebbero benissimo non essere d'accordo, anche perché onestamente io non so voi, ma non vedo tutte queste relazioni in cui i non umani sono proprio felici di avere a che fare con noi, cioè queste gazzelle che ci si lanciano in braccio, ti prego, salva, ma no, ma anche meno, ma ti incorne, vaffanculo che stavi nel posto sbagliato. C'è anche un po' questo, dovremmo forse anche riscoprire anche un po' di umiltà, forse in questo senso, nell'attraversare gli spazi sapendo che noi condividiamo un ecosistema. E questo può comportare delle interazioni che possono essere serenissime come pure problematiche, perché se ti vai a mettere in un posto dove c'è un predatore e ti trovi di fronte a sto predatore ed è un puma, sei un essere umano, non sei una tigre con i denti a sciabola, cioè ci puoi fare poco un cazzo, non andare in giro col fucile perché hanno anche rotto le scatole i cacciatori. E tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa prima, questa cosa qua della carne, della mascherità, ma anche della caccia, che è un'altra delle cose molto simboliche della caccia, ma soprattutto del controllo, degli allevamenti, dei macelli. È un messaggio subliminale che tutte le persone, tutte le soggettività marginalizzate introiettano, perché Uno dei processi che giustifica e legittima i sistemi oppressivi di dominio è la discriminazione, quindi una costruzione ideologica che fa sì che sia legittimo considerare quella soggettività meno rilevante, e quindi tutto quello che si può fare viene legittimato. Pensate banalmente, ma non troppo, a come l'IDF spesso si riferisce alle persone palestinesi, li chiamano animali. Perché li chiamano animali nella concezione di animale non umano? Perché se tu decidi a tavolino che una soggettività è un animale non umano, tu le puoi fare qualsiasi cosa. La puoi uccidere, la puoi fare a pezzi, la puoi bombardare, la puoi riempire di macerie, puoi distruggere il suo futuro, puoi decidere il suo diritto ad immaginare un futuro, una libertà, puoi addirittura negarle il diritto di incazzarsi un pochino e di resistere. Lo puoi fare, perché se non gli riconosci la soggettività, se non gli riconosci l'autodeterminazione, non gli riconosci il diritto al consenso, gli puoi fare qualsiasi cosa. E questo succede a tutte le soggettività marginalizzate. E il fatto che ci siano queste attività rituali, come pure la griglia fatta, mi si perdoni, dal maschio basic, che si mette di fronte a questo fuoco e fa vedere questa cottura pubblica del trancio di carne che gronda sangue e viene cotto a fuoco vivo, è una rappresentazione, è una pantomima di qualcosa, di un ordine di dominio. Il fatto che ci sia ancora questo culto della caccia è un chiaro segnale, perché nel momento in cui sono una persona socializzata donna e so che vengo bestializzata, nel momento in cui sono una persona queer e la mia identità di genere non è così conforme, io vengo bestializzata, nel momento in cui non sono una persona ricca e vengo bestializzata perché sono manovalanza, sono un corpo da mettere a reddito, nel momento in cui ho un'identità sessuale non conforme, per questo sono ancora più bestializzata, perché prima ti dicono che sei contro natura, però poi dopo c'è un orientamento bestiale, a quel punto dice almeno mettiti d'accordo col cervello, cazzo, se mi devi discriminare, Cristo. Però quando vivi questa identità e vivi un costante stato di bestializzazione in maniera negativa e non positiva, tu sai che un giorno dalla parte di quella canna di fucile ci potresti essere tu. E quindi tu impari ad aver paura del potere, impari a stare nei ranghi, impari a non metterlo in discussione. Invece rivendicandoci di essere animali, di essere bestie a nostra volta, ovviamente bestie che indossano un bel certo privilegio, ricordiamocelo, a quel punto possiamo fare una sovversione assoluta e radicale del sistema. Perché una cosa molto triste è che noi possiamo lottare contro le forme di dominio quanto cazzo ci pare e piace, ma finché ne lasciamo in piedi una, rimane in piedi una struttura gerarchica, e finché questa è in piedi, noi non abbiamo liberato nessuno. Perché un attimo che l'interesse cambia, è un attimo che i poli di potere si invertono e di nuovo il cerchio si riapre. Quindi o facciamo una lotta per la liberazione totale, con liberazione significa anche riconoscere il diritto al consenso delle soggettività non umane, significa riconoscere la loro autodeterminazione e la loro volontà di non avere a che fare con noi, e quindi anche il loro diritto a morire, a estinguersi o quel che l'è, insomma, essenzialmente. A quel punto, facendo questa invenzione, questa inversione, noi diventiamo veramente traditori del sistema che vogliamo abbattere. E se noi lo tradiamo e diventiamo disertori, diventiamo complici e compagni di tutte le soggettività. E lì veramente facciamo una rivoluzione strutturale, complessa e soprattutto interdipendente con tutte le comunità che attraversano il nostro pianeta. Sì. A questo punto, domandona, la pasta a quanto pare è arrivata. Se ci tratteniamo, un'ultima domanda, poi in realtà non abbiamo ancora lasciato lo spazio al pubblico, oppure facciamo che la rialzate educatamente, andate a prendere a mangiare, vi risiedete, così andiamo avanti ancora un pochino. Ok, va bene. E, so, Mauro, tu vuoi dire qualcosa? A ore. Allora adesso poi prendiamo da mangiare, andiamo avanti. Piccolo aneddoto stupido: a un certo punto mi capitò di lavorare con un ragazzo che abita a Gratosoglio, altra periferia famosa, cantiere di scarica di mille problemi, c'è un campo rom, c'è una casa per senza tetto, cioè un quartiere generale un po' fatiscente, caseale, ramianto ovunque, altissima incidenza di tumori, un problema dietro l'altro. E a questo punto gli chiesi, ma perché lui è appunto uno che aveva fatto abbastanza vita di strada, cioè, ma perché quando io vengo a Gratosoglio oppure parlo con te, con voi, perché lui faceva parte del collettivo di GTA, che è uno spazio occupato a Gratosoglio, non vedo quelle persone di periferia che mi aspetterei, la gente che va a fa pugilato, la gente arrabbiata che vuole andare in centro e rubare le collanine alle persone, perché? La cosa che lui mi rispose con grandissima, da persona che ci vedeva dentro veramente, ma perché la gente in periferia è disillusa, cioè non c'è niente e basta. E si ferma tutto lì, cioè non c'è nulla, e cresci col niente e pensi che non varrai niente, non farai niente, non puoi fare niente, non devi andare da nessuna parte, stai lì così e basta. E mi sono reso conto che cioè non c'è la rabbia in periferia, c'è niente. E allora, dato che tuo libro parla tantissimo di periferia e di femminismo di periferia, ti dico, cioè, ti chiedo se hai voglia, perché poi non nascondo, faccio finta che sia un'opinione collettiva, che noi le presentazioni di libri, gli incontri che facciamo, le facciamo anche perché è evidente che manca un po' di idea, no? Cioè, vabbè, ce lo possiamo dire, ha vinto Trump, se non sbaglio, ennesima volta in cui la sinistra, se vogliamo chiamarla così, oppure chi non si definisce ultrafascista di merda, non ha saputo dire niente alla gente delle periferie, che teoricamente aveva tutto da dire contro Trump, perché hanno votato ispanici, arabi, afroamericani, hanno votato Trump perché evidentemente l'altra parte era così triste la situazione che è andato piuttosto lui. La domanda è: come il femminismo di periferia può togliere questo niente? È la costruzione di comunità? È la diffusione di un altro concetto? È un modo diverso di prendersi cura? C'è un concetto che tu accenni nel libro, che è l'assistenza coetnica. Perché effettivamente quando si trovano a vivere persone del Bangladesh con persone del Marocco, però sono comunque escluse entrambe da una città, e allora forse si mettono d'accordo. Cioè, come si fa a stare in periferia dove il problema vero non è, cioè, alcune volte sì, il razzismo è la lotta per il nulla che ci lasciano, però molte altre volte invece semplicemente cioè il voto cosmico e basta. Ok, questo è proprio un problema di immaginario. Perché intanto avere ambizioni è una cosa da ricchi. In periferia puoi avere dei sogni, considerarli irrealizzabili, poi dipende da persona a persona, dalla famiglia, dalla cultura in cui si cresce. Però tendenzialmente poter immaginare di fare qualcosa è molto complicato, perché bisogna avere una certa progettualità, e la progettualità si costruisce anche sulla base degli stimoli che riceviamo. Se noi abitiamo un territorio, e non parlo solo di periferia urbana, ma parlo anche di territorio culturale, in cui l'unico immaginario possibile è il sistema di merda in cui viviamo, a un certo punto uno dice: ma perché mi devo pure sbattere le palle della mia vita e sprecare del tempo a fare qualcosa che so che non serve a niente? Perché dovremmo farlo? Primo perché è giusto, e ce lo possiamo accollare che è giusto, ma poi perché, come è stata immaginata una cosa che ora dimostra in ogni modo di essere fallace e disfunzionale, ne possiamo immaginare un'altra. E qui per me subentrano gli spazi transfemministi, perché una delle più grandi risorse che ci dà il transfemminismo è immaginare un mondo diverso, e non diverso in maniera univoca, unilaterale, perché è arrivato il verbo della piscella di Comasina a dire come deve essere il futuro, perché anche no, ma è proprio un immaginario collettivo, che forse è la cosa più potente a cui siamo più diseducati in assoluto. Cioè immaginare di poterci costruire una società come ci fa stare bene, insieme, come gruppi eterogenei diversi, e modularci sulla base delle necessità man mano che andiamo avanti. Questa cosa non la immaginiamo nemmeno possibile, cioè io che lo dico non riesco a immaginarla, e covo una profonda disillusione sotto certi aspetti. Ma sapendo di avere delle compagne, delle sorelle, di avere dei gruppi, di avere degli spazi in cui questo futuro è già presente, perché quando io vado al rifugio io vivo già nella società che vorrei, io vivo già in un futuro liberato, è liberato fra virgolette perché c'è un recinto, ma è perché è limitato, purtroppo fuori sappiamo cosa c'è, sappiamo che il giorno in cui non c'è più il rifugio la gente entra e gli animali che sono lì li ammazzano. Sappiamo che quando esco da lì io non sono più la compagna, la sorella, l'amica, quel che l'è, ma sono un pezzo di figa, un culo, la frocia non troppo non convinta, perché mi hanno detto pure questo, perché poi è bellissima la discriminazione, incontri anche in comunità che dici porco cazzo. Non troppo non convinta, perdono, no, mi è sfuggito l'italiano, cioè cosa ti volevano dire? Che non eri abbastanza frocia per il loro standard, ok. Fatto dei documenti, no? Guarda, c'è scritto proprio. Non è così. Però sì, cioè nel senso, fuori ritorna quella cultura lì. Però una volta che si esperisce una differenza, o anche solo si immagina insieme una differenza, arriva la determinazione a non voler tornare indietro. E quindi lì poi sta anche il compito più complicato, che è quello di comunicare. Che non vuol dire andare di nuovo a portare il verbo al Vangelo, il tipo adesso arrivo io, Comasina, e dico alla gente come si vive, perché mi sputano in faccia e c'hanno pure ragione onestamente, ma proprio anche di mettersi lì a aprire delle conversazioni. Io penso di aver avuto una delle conversazioni più interessanti della mia vita un giorno che stavo nel bar sotto casa dei miei in Comasina, che per me è il bar con la I maiuscola, perché quello è tipo un polo esistenziale per me e per tutte le persone che abitano lì intorno, e io devo scrivere una roba sulla maschilità, in particolare sul legame tra maschilità e denaro. E ero lì che stavo scrivendo, sì vabbè, me la suono e me la canto, dai. Ho chiesto ad alcune persone che erano lì, secondo loro, cosa significasse essere un vero uomo. Persone che usano tutti gli slur possibili e immaginabili, persone che non si sono mai poste la domanda, persone che vivono in relazioni altamente tossiche, super controllanti, dove la gelosia è morbosa e non è un sentimento che viene accolto e razionalizzato, trattato, comunque messo sul piatto di una discussione condivisa. Persone che si svegliano la mattina e hanno la fobia che magari un giorno il figlio faccia coming out, quindi non voglio neanche romanticizzarvi la situa. Persone che però in quel momento si sono trovate di fronte a una domanda per la prima volta nella loro vita e mi hanno tenuto lì le ore a parlare, a dire quanto queste... Prima mi dicevano, vabbè, un vero uomo deve fare questo, deve mantenere la famiglia, deve avere la compagna, deve essere forte, la deve difendere, poi dici, ma da chi? E la risposta di erano, dagli immigrati. Ma sei sicuro? Sei proprio sicuro? Non facciamo di nuovo questo discorso, ma vabbè. Dopo queste prime risposte, anche abbastanza standard, ma comunque molto centrate, arrivava la volontà di raccontare il mondo interiore, la difficoltà di stare in questo cerchiolino di stereotipo, la difficoltà di doverci stare, di sapere che la maggior parte del tempo è un bluff, perché non sei ricco, perché non hai questa presenza di consumo, perché non ti senti così sicuro, perché tu stesso hai un'emotività che non puoi esprimere. Tu prima parlavi della sublimazione delle relazioni omoerotiche, ma in generale di qualsiasi relazione emotiva. Ti insegnano da quando sei piccolo che per dire a una ragazzina che ti piace devi mollare il ceffone e tirare i capelli. Dove stanno le tue emozioni? Come le puoi esprimere? A me è capitato di sentir dire a mio nipote non piangere, lui è una persona che al momento viene socializzata uomo, non piangere perché non sei una bambina. Quindi questo è il tipo di cultura in cui si cresce, in cui immaginare la propria emotività è già una colpa, figuriamoci pensare di esprimerla. E quindi bisogna stare lì, bisogna farsi le domande, prendersi un sacco di sole. E ciò sto, mi spiace, io prendo un sacco l'accento dei posti in cui vado, ultimamente sono stata a Roma, mi dispiace, so che non si può sentire il romanaccio in bocca a me, mi dispiace proprio, però vabbè. Però si sta lì, bisogna aprire queste conversazioni, bisogna anche sapere che delle volte ci si troverà in degli spazi in cui non si troveranno le risposte che si sta cercando, perché a volte la gente non c'ha voglia, non c'ha sbatti, perché avere il tempo per pensare e per immaginare è un cazzo di privilegio in questo mondo, perché se hai del tempo libero devi trascorrerlo a non pensare, e quindi o bevi o guardi la televisione o guardi il programma che tutti stanno guardando o ti guardi Netflix o passi il tuo tempo a far sì che l'Instagram ti distrugga il tempo della vita e te lo assorba in un prodotto convertibile. Non c'hai tempo, non c'hai voglia. Devi trovare una compagna che a sua volta abbia tempo, voglia. Io uso il femminile sovraesteso più delle volte. Quindi un compagno che abbia il tempo e la voglia di stare lì con te in quella conversazione con tutta la difficoltà del caso. Poi quando siamo di fronte a uno stronzo si può sempre mandare, perché non dobbiamo nemmeno darci al martirio, perché a volte anche i vaffanculo aiutano a capire certe cose. Io alcuni elementi oppressivi della mia identità li ho capiti perché qualcuno mi ha mandato a fare in culo, quindi rivendichiamoci anche questo diritto alla rabbia. E poi capire anche che spesso noi siamo arrabbiati senza sapere di avere il diritto di essere arrabbiati, e quindi sopprimiamo la nostra rabbia nell'apatia, nella noia, nella monotonia. Perché la rabbia comunque richiede anche un impegno, perché la rabbia a un certo punto ti chiede realizzazione, e quindi o diventa disfunzionale, diventa tossica, diventa problematica, oppure se trova uno spazio fertile diventa un incendio poderoso perché non è più da sola. Quindi io non penso di poter risollevare i mali del mondo né di risolvere la patria nelle periferie. Però penso che come gruppi, che come spazi, che come identità anche singole che vogliono costruire un immaginario diverso, anche se per poco, anche se in uno spazio limitato, anche sapendo che ci andiamo a schiantare contro un titano, perché quella cosa che dici di Trump, cioè, è deludente e purtroppo non ci sorprende nemmeno più, perché lo sapevamo benissimo, l'abbiamo visto succedere ed eravamo lì. Però è andare avanti, perché finché noi non ci riconosciamo davvero la possibilità di immaginare una cosa diversa e di lottare per realizzarla, per far sì che non sia più solo il sogno di qualcun, non abbiamo lottato veramente. E anche quando avremo lottato veramente, ci saremo fatti il culo di nuovo e magari le cose non andranno bene, se facciamo le cose per bene con quell'ottica transfemminista intersezionale che le compagne afroamericane ci hanno dato e ci hanno messo in mano e condividono e hanno condiviso con noi, sapremo anche di avere gli strumenti per aggiustare il colpo, perché non è detto che quello che noi immaginiamo sia il meglio per tutte. Non dobbiamo avere questa presunzione. Dobbiamo avere la serenità di sapere che se faremo una cazzata c'è una compagna che ci tira un ceffone virtuale, morale, e allora aggiusteremo la rotta insieme. È che ci serve questa conversazione, a cui però non siamo educati. Mi dispiace.